A voi sta a cuore l'incolumità del popolo tedesco, signorina Scholl? Sì. Voi non avete mai piazzato una bomba come il vile Eiser fece nella distilleria di Monaco. Forse avrete usato gli slogan sbagliati, ma i vostri mezzi sono pacifici. Allora perché volete comunque punirci? Perché così è previsto dalla legge. Senza legge non c'è ordine. La legge che avete appena nominato tutelava la libertà di parola prima dell'arrivo dei nazisti nel 33. Oggi Hitler punisce quella stessa libertà con la prigione e la morte. Questo lo chiamate ordine? E a cosa dovrei attenermi, secondo lei, se non alla legge? Chiunque sia stato a formularla. Alla coscienza. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Quel sogno è rimasto lì per 30 anni finché quel pomeriggio ho sentito la storia di Sofie alla radio. Prima di quella trasmissione io non avevo mai saputo niente di lei. Quale sia il senso di questa storia non lo so. Una cosa mi sembra di capire però. Lei vuole essere ricordata. Storie di madri dimenticate e di sogni premonitori in una puntata tutta dedicata al vizio dell'oblio. Lo abbiamo inaugurato una decina di giorni fa, direi, forse due settimane. Abbiamo inaugurato questo nuovo filone dedicato al vizio che noi abbiamo chiamato oblio, proprio la giornata della memoria, durante la giornata della memoria, in cui abbiamo raccontato storie che raccontavano proprio questo, quanto la dimenticanza in sé, l'obliare le cose, le memorie, le persone e le storie sia un problema e possa essere catalogato come nuovo vizio capitale. Facciamo questo qui a Linee d'Ombra. Vi raccontiamo storie, non andiamo da nessun'altra parte, non spieghiamo le cose, non divulghiamo nulla di scientifico o di particolare, semplicemente raccontiamo storie. Con quelle storie cerchiamo però di capire qualcosa di più dei vecchi e dei nuovi vizi capitali. E senza dubbio, dalle storie che ci sono arrivate e dai racconti della realtà che abbiamo intorno a noi, quello della dimenticanza delle cose importanti nostre, private, ma non solo, anche e soprattutto pubbliche, storiche, umane, oserei dire. È sicuramente uno dei nuovi vizi di oggi, forse anche perché siamo bombardati di un tale numero di informazioni che è complicato tenere a memoria tutto e tenere a memoria quello che ci serve, o meglio, probabilmente teniamo in memoria soprattutto quello che ci serve strettamente per la nostra vita quotidiana, per le nostre esigenze, per i problemi che dobbiamo risolvere, e in qualche modo forse rimane meno spazio per ricordare le cose che servono universalmente a tutti noi, e per questo ci siamo qui noi, per questo ci sono le storie da sempre, oltre a tramandare informazioni, insegnare, educare, fanno anche questo, semplicemente mantengono la memoria accesa su qualcosa, su qualcuno che non c'è più. Non so se vi è mai capitato, quando ad esempio se ne va una persona cara, magari all'inizio non succede subito, però dopo che si è metabolizzato quel dolore, quella sofferenza, io credo che il modo migliore per ricordarla sia raccontare storie su di lui o su di lei, anche diciamo intorno a un tavolo tra amici in un momento difficile. Quando si ricorda una persona che non c'è più, la cosa che viene naturale fare, magari ci imbarazza, credo che però sia sbagliato. La cosa che è giusta e naturale fare è ricordare cose anche divertenti di lui, anche ridere ricordando le cose che lei o che lui hanno fatto insieme a noi, perché è l'unico modo per tenerli vivi. Ecco, l'oblio rischia di fare l'opposto, rischia di farci dimenticare chi siamo di fatto, da dove veniamo e per quale motivo abbiamo fatto certe scelte nella nostra vita, e invece in maniera più ampia e più grande rischia di farci dimenticare chi siamo come popolo, come civiltà, se nel nostro passato sono successe cose terribili. Vi raccontiamo tre storie oggi, almeno tre come sempre. Vi raccontiamo due storie che ci sono arrivate da due ascoltatori diversi, e uno parla di una madre che di fatto è stata, come dire, nascosta nell'oblio, una madre che addirittura il protagonista pensava fosse morta e poi a un certo punto scopre che è ancora viva, anche se le manca molto molto poco. E poi la seconda storia darà il là per raccontare anche la terza, è la storia di Dina, che ci racconta di un sogno premonitore, che racconta di una donna di cui lei non aveva mai sentito parlare e che appunto è probabilmente una donna e un'esperienza dimenticata, e noi oggi, grazie al suo sogno premonitore, grazie alla sua storia, racconteremo proprio la storia di Sofie Scholl. Questa è Linee d'Ombra, benvenuti. Non ho mai conosciuto mia madre. Ho sempre pensato che fosse morta sotto un treno. Fino agli 8 anni. Poi, un bel giorno, mio padre se n'è uscito con un «Andiamo a trovare vostra madre. Vuole vedervi». Io guardai mia sorella un po' più grande di me e la vidi abbassare gli occhi. Lei sapeva. Mia madre non era morta. Il viaggio per attraversare la mia Sicilia fu molto lungo, ricordo, fu interminabile. Eppure l'avrei fatto successivamente molte volte ancora, ma quello non volle finire mai. Arrivammo tutti infagottati per il freddo, era un paesino sperduto tra le montagne al centro della Sicilia. Il paesaggio era lunare e le persone sembravano arrivare da un altro pianeta. Eppure io venivo da Catania, solo pochi chilometri più in là. La gente cominciò a radunarsi, a bisbigliare: «Loro sono i figli di Rosalia». Alcuni lo facevano quasi furtivamente, altri se ne compiacevano. Io ero lì, attonito. «Cosa volete? Mia madre è morta sotto un treno», dicevo in silenzio. Capii successivamente il perché di quella curiosa parata molto molto affollata. Ero solo un figlio di genitori divorziati, uno scandalo troppo grande per passare sotto silenzio in un paesino al centro della Sicilia sul finire degli anni 70. Forse sarò stato il primo, credo, altrimenti ancora oggi non mi spiego tanto clamore. Entrammo in casa. Le ali della folla continuarono a seguirmi come in processione, ma adesso erano muti. Ricordo una rampa di scale stretta stretta e un odore di morfina insopportabile, nient'altro. Nel frattempo mio padre sparì. Tutto successe all'improvviso, mi ritrovai delle mani gelide sul viso. Una donna mi guardava con gli occhi spalancati. Piangeva. E ricordo che le lacrime erano lì a scavare un fosso in un viso troppo magro. Troppo magro per essere ancora vivo. «Guardami, amore mio», mi disse. «Sei mio figlio. Ti ho sempre voluto bene, lo sai». E piangeva. Piangeva ancora mentre il fazzoletto che aveva in testa non riusciva a coprire la sua testa senza capelli. Tutto era accelerato, ricordo che tutto andava veloce come l'intuizione che attraversò la mia mente. Avevo riconosciuto la voce, avevo riconosciuto il pianto. Era lo stesso che insultavo al telefono da anni, con l'incoraggiamento di mio padre e per la soddisfazione di sua moglie, la seconda. Il pianto era lo stesso, era lei. Dunque capii che non era vero, mia madre non era morta. Mia madre l'avevo già conosciuta ed era la stessa che per anni ingiuriavo con parole che un bimbo non conosce. Mio padre dal nulla poi riapparve. La folla, evidentemente soddisfatta, era sparita. Partimmo. Mia madre era viva, ma morì una settimana dopo, e mio padre non aprì mai bocca sull'argomento. E io non gli chiesi mai nulla. Anche lui morì troppo giovane per accampare scuse. Curiosamente lo stesso giorno di mia madre, l'8. A hallway, thousand birds long, but the biggest one of all was in a cage too small. I asked the caretaker, 'cause he was a maker, looked at me and laughed, took another sip from his glass. He said, "Open up your ears and eyes. You put a big bird in a small cage and sing you a song." Thank you. Ringraziamo Carmelo per averci mandato la sua storia a linee d'ombra @radio24.it. È una storia di oblio proprio perché è un oblio forzato, non è un oblio che nasce dal tempo che passa e che trascorre. È la storia di una donna che viene davvero messa in un angolo buio, fisico e mentale, nella storia di Carmelo e della sua infanzia. E davvero lo ringraziamo per avercela mandata. Ora continuiamo a raccontare storie di oblio, ma andiamo da un'altra parte, perché la prossima storia, la storia di Dina, racconta di un personaggio storico che probabilmente in molti si sono dimenticati, che molti probabilmente non conoscono nemmeno. L'abbiamo sentita in apertura di puntata, la sua storia, la voce presa da un film che si intitola La Rosa Bianca. Ebbene, lei, senza aver visto quel film, un giorno fa un sogno, questo qua. Non mi capita spesso di ricordare un sogno notturno. Più di 30 anni fa sognai invece indelebilmente. Molta angoscia, nel sogno sapevo che sarei stata decapitata quel giorno stesso alle 5 del pomeriggio. Il lato più tremendo dell'incubo era la totale mancanza di condivisione, l'indifferenza di tutti coloro a cui comunicavo che sarei stata decapitata di lì a poche ore. Nel parossismo dell'angoscia mi svegliai e non dimenticai. Mi sembra importante rilevare che all'epoca non si parlava di decapitazioni se non in relazione con la rivoluzione francese o poco altro. Mi sono svegliata angosciata, spaventata, ma soprattutto, ripeto, mi ricordo che nel sogno io cercavo solidarietà, cercavo qualcuno che perlomeno mi dicesse poverina, facciamo qualcosa, invece no, io dicevo sarò decapitata oggi, fra qualche ora, e trovavo solo indifferenza, alzate di spalle. È stato veramente uno dei sogni più terribili della mia vita. Passarono oltre 3 decenni, 30 anni. 5-6 anni fa, un giorno di febbraio, ascoltavo una bellissima trasmissione alla radio. Ogni giorno raccontava un evento, un personaggio legato a quella data, a quel giorno, a quel mese, ma di molti anni prima. Ero a tavola con mio marito e la voce narrante non aveva pronunciato più di 4 o 5 parole, che io cominciai a piangere, come una fontana, irrefrenabilmente. «Non lo so, è più forte di me», risposi a mio marito stupefatto che mi domandava cosa c'era. Intanto la radio raccontava che quel giorno, più di 70 anni prima, era stata pronunciata la condanna a morte per Sophie Scholl, suo fratello e il suo fidanzato. Rei di avere diffuso all'università volantini antinazisti e di avere fondato un'associazione chiamata La Rosa Bianca per allertare i connazionali tedeschi sugli orrori del regime. La condanna fu eseguita il giorno stesso, tramite decapitazione, alle 5 del pomeriggio. Sofia non era ebrea, non era cattolica, era una cristiana, semplicemente una ragazza che rifiutava l'orrore che stava dilagando in Germania. Prima di quel programma alla radio io non avevo mai saputo nulla di lei. Quale sia il senso di questa strana storia io non lo so. Una cosa però mi sembra di capire. Lei vuole essere ricordata. Tutti conoscono Anna Frank, molti conoscono Padre Kolbe o Edith Stein, pochissimi, ed io non ero tra quelli, sanno del sacrificio di Sophie. Pack up the sun and sweep away the stars and hang a veil over the moon. The cars are parked and the bells are ringing out. Just never thought you'd leave so soon. But those wild roses are growing round the houses you buried under the arches of your life. And will you beg my forgiveness? Will you be my only witness to this burning flight over those white, white roses, those white. A ammetto che io ero tra quelli, proprio come Dina, che non conosceva o conosceva forse per sentito dire la storia di Sophie Scholl, e quindi io le sono personalmente molto molto grato per averci raccontato il suo sogno, per averci dato modo nella prossima parte di puntata di raccontarne la storia. Pronto, ciao Dina, buongiorno. Buongiorno Matteo. Grazie davvero per averci raccontato questa storia, che è una storia minuta, è molto piccola, e soprattutto ne parlavo, non mi ricordo più con chi, forse con Anita, di solito, per esperienza personale, ma è abbastanza condivisa, il racconto dei propri sogni non è una cosa molto interessante, perché i sogni sono molto complessi, perché appunto il mondo onirico è diverso dal mondo reale, quindi quando le raccontiamo ero lì, ma non ero lì, poi c'eri tu, poi non c'eri più, di solito tenere l'attenzione è molto complicato. Il tuo sogno invece era talmente nitido, talmente preciso e talmente sconvolgente, anche agghiacciante, decisamente agghiacciante. Tu eri una bambina quando eri una ragazzina? No, non ero una bambina. Non ero una bambina, ero grande, ero adulta. Come avevo detto ad Anita, per conto mio avevo maturato ripugnanza e orrore nei confronti del nazismo. Perché da ragazzina qualcuno mi aveva portato a Dachau, okay. Dove il museo fotografico è sconvolgente e marchia per sempre. Io suggerirei di portare tutti quelli che mettono in dubbio la Shoah a visitare un campo di concentramento, ma quello col museo fotografico è particolarmente sconvolgente. Ti aveva segnato questa cosa, evidentemente, nell'inconscio. È una cosa che fa ancora parte della mia personalità, dei miei pensieri. È capitato questo sogno, ripeto, in un periodo in cui di decapitazioni non si parlava proprio, sembrava una cosa fondata nel remoto passato, non c'era quella pubblicità mediatica che hanno avuto le decapitazioni recenti. Certo, per la storia terribile legata appunto al terrorismo. E quindi è venuta questa cosa... Io non quando ti svegliasti, Dina, eri con qualcuno? Avevi già un marito accanto? Sì, avevo un marito. E glielo raccontasti oppure no? Non me lo ricordo se glielo raccontai. Francamente non me lo ricordo. Però appunto la coincidenza incredibile è quando tu senti poi un racconto radiofonico di questa ragazza e associ tutto a distanza di, parliamo, oltre 30 anni. Sì, 30 anni tutti e forse qualcuno in più. Senti, ma tu hai per caso, ti sei messa in contatto con quel conduttore o con quel programma radiofonico per condividere quella storia, no? No. Grazie per averlo fatto con noi, allora. Senti, Dina, so che mi diceva Anita che il tuo nome, tu non ti chiami Dina in realtà. No. È un nomignolo che arriva da? Da mio padre, però recentissimamente. Ho trovato una sua lettera in un posto dove avevo rovistato per decine e decine di anni, non l'avevo mai trovata, e l'ho trovata non perché la cercassi, l'ho trovata, mi è venuta per le mani, e era una lettera che mi aveva scritto quando ero ragazzina, e diceva, esordiva, cara Rolandina. Lui si chiamava Rolando e io sono rimasta stupefatta perché non mi ricordavo questa cosa. Guarda, te l'ho chiesto proprio perché questa puntata, grazie anche alla tua storia, è una puntata che è dedicata appunto a quello che noi abbiamo chiamato il nuovo vizio dell'oblio, e quindi mi piaceva appunto raccontare di recuperi della memoria. Dina, prima di salutarti, che cosa hai fatto tu nella vita? Sei in pensione, lavori ancora? Sono in pensione, ho fatto la prof di latino italiano al liceo. Senti, hai avuto modo di raccontarla la storia di Sophie Scholl ai tuoi ragazzi? No, perché non la troppo conoscevo tardi. Ancora. Ah, certo. Non la conoscevo ancora. Quando ho ascoltato quella puntata che parlava di lei, ero già in pensione. E allora guarda, adesso mandiamo le borse in diretta e poi la raccontiamo noi la storia di Sophie Scholl. Grazie davvero per avercela ricordata. Grazie a voi. In bocca al lupo per tutto, Dina. A presto. Ciao. Ciao. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. Oh, what do you say? come dicevo poco fa a Dina. Ci ascoltiamo Le Borse in diretta, poi state con noi che torniamo con la storia di Sophie Scholl. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E quindi in questa puntata dedicata al vizio dell'oblio cerchiamo di cogliere al volo la palla che ci ha lanciato Dina nella sua storia, che racconta del suo incubo in cui veniva all'interno di questo sogno terribile decapitata alle 5 di pomeriggio per delle ragioni che per lei erano incomprensibili, e poi un giorno scopriva che quella storia lì, quella storia che lei aveva sognato come protagonista, era la storia di una giovane donna tedesca che insieme al fidanzato e al fratello veniva decapitata per essere avversa al nazismo, per avere dichiarato apertamente all'interno dell'università che quegli orrori non dovevano essere perpetrati. E quindi raccontiamola questa storia, perché da ragazzini Hans e Sophie Scholl erano stati membri della gioventù hitleriana, dove avevano iniziato a rendersi conto della natura aberrante delle idee naziste. Ne uscirono per entrare in un movimento che si chiamava Movimento Giovanile Tedesco, che era un movimento illegale. Ma fu durante la Seconda Guerra Mondiale che presero definitiva coscienza di quello che sarebbe diventata la Germania. Hans, il fratello e l'amico Christoph Probst vengono impegnati sul fronte russo e lì, con i loro occhi, si rendono conto delle tremende brutalità commesse ai danni degli ebrei e dei polacchi, oltre che dell'inevitabile drammatico destino di morte e sconfitta che si staglia all'orizzonte per un Reich che è fondato sull'odio e sulla distruzione. Rientrato in Germania, Hans si iscrive alla facoltà di medicina, eppure non trova nessuna pace al pensiero di studiare e restare passivo mentre la tragedia del regime nazista sconvolge il suo paese. Non è assurdo, dice, continuare a studiare aspettando che un giorno la guerra finisca e che tutti i popoli ci additino dicendo che abbiamo sopportato un simile governo senza opporre resistenza. Il ragazzo decide quindi di agire e fonda insieme a Christoph e ad altri studenti di medicina un movimento antinazista di ispirazione cattolica. Al movimento aderisce anche Sophie, sua sorella, la più giovane del gruppo, con i suoi appena 21 anni. In questa puntata, la seconda storia di oggi è la loro. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Sophie ha fatto la maestra. Studia filosofia e medicina, ama la pittura, i libri, l'arte. Studiando, confrontandosi con artisti e intellettuali, ascoltando i racconti del fratello e di Christoph, ha maturato la certezza che il Reich è un regime mostruoso e che è necessario, oltre che inevitabile, provare a fermarlo in prima persona. Ha già avuto il coraggio di scrivere Libertà sui cancelli dell'Ateneo, ma adesso bisogna fare di più. E decide di farlo a fianco al fratello. Come simbolo, il gruppo di giovani sceglie la rosa bianca, emblema di pace e purezza contro la brutalità del male. I ragazzi della Rosa Bianca divulgano volantini contro il regime che riescono a stampare con una sola macchina per ciclo stilare e sono riusciti a rimediare. Li spediscono a intellettuali e professori. Li lasciano in locali pubblici. Li lanciano dai tram di notte. Ogni parola di Hitler è una bugia, scrivono, chiamando i tedeschi a resistere senza violenza, a disobbedire e non sostenere il Reich. Vogliono risvegliare la coscienza e il dissenso di quei tedeschi che non possono riconoscersi negli orrori del nazismo. Fate resistenza passiva, resistenza ovunque vi troviate, dicono. Impedite che questa atea macchina da guerra continui a funzionare prima che le città diventino un cumulo di macerie. Dopo la metà del 1942, l'azione della Rosa Bianca diventa più determinata e pericolosa, fino a quando, nel 1943, i volantini portano la firma più esplicito di Movimento di Resistenza in Germania. E i ragazzi arrivano a scrivere slogan contro Hitler sui cancelli universitari. La sesta serie di opuscoli viene distribuita all'Università di Monaco la mattina del 18 febbraio del 43, di fronte a un sacco di testimoni. Sophie sale persino in cima alle scale dell'atrio dell'Ateneo per lanciare dall'alto sugli studenti quei volantini che non era riuscita a consegnare a mano. La ragazza viene riconosciuta da un bidello nazista che fa chiudere tutte le porte e poi chiama la Gestapo. Sophie Scholl è consegnata alla polizia insieme al fratello Hans. Christoph viene arrestato solo pochi giorni dopo a Innsbruck, mentre cerca di andare a salutare la moglie malata e la seconda figlia appena nata. Considerata a torto la più debole del gruppo, di cui invece è l'anima, Sophie viene torturata per 4 giorni affinché faccia i nomi degli altri compagni del gruppo. Durante l'interrogatorio spiega come non si possa restare inerti di fronte alle mostruosità, in particolare all'eliminazione fisica degli ebrei o dei bambini mentalmente ritardati, prelevati in ospedale dalle camionette delle SS con la promessa di essere portati in paradiso. E io, dice, non dovrei provare pena per questa gente? L'accusatore le risponde: si tratta di esseri inferiori. Voi che avete studiato da infermiera avrete visto più volte dei bambini ritardati. In nessuna circostanza, dice lei, ci si può arrogare il diritto di decidere della vita e della morte di un essere umano. Forse è meglio che vi abituate all'idea, chiudeva l'accusatore, perché una nuova era è cominciata. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no to kill or die for, no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, le rompono una gamba, le promettono una riduzione di pena se sceglie di ritrattare e condannare le posizioni di Hans. Non tradirò mio fratello, dice lei, né i miei principi, non farò alcun accordo con i nazisti. Signorina Schell, non è pentita di ciò che ha fatto? Le chiede il suo inquisitore. No, risponde lei, al contrario. Io ho fatto ciò che ritenevo giusto per il mio paese e non rinnego la mia condotta né sopporterò le conseguenze. Allora è finita, signorina Schell. Dopo 4 giorni di vane torture e minacce, perfino gli aguzzini si arrendono. I fratelli Schell non hanno fatto alcun nome, non hanno ritrattato nulla. Vengono consegnati al Tribunale del Popolo per un brevissimo processo farsa, che in sole 5 ore si chiude con questa sentenza. Gli accusati hanno, in tempo di guerra e per mezzo di volantini, incitato al sabotaggio dello sforzo bellico e degli armamenti e al rovesciamento dello stile di vita nazionalsocialista del nostro popolo. Hanno propagandato idee disfattiste e hanno diffamato il Führer in modo assai volgare, prestando così aiuto al nemico del Reich e indebolendo la sicurezza armata della nazione. Per questi motivi, essi devono essere puniti con la morte. La condanna deve essere eseguita al giorno stesso, mediante ghigliottina. La dignità dei condannati impressiona le guardie del carcere, che concedono loro di incontrare i genitori e poi fumare insieme un'ultima sigaretta prima di eseguire la sentenza. Privilegi questi, mai ripetuti in seguito per nessun altro condannato. Sophie affronta il patibolo con una compostezza che turba perfino il suo boia. Prima di inginocchiarsi dice: come possiamo aspettarci che la giustizia prevalga quando non c'è quasi nessuno disposto a dare se stesso individualmente per una giusta causa? È una giornata di sole così bella, continua, e devo andare. Ma che importa la mia morte se attraverso di noi migliaia di persone sono risvegliate e suscitate all'azione? Christophe, dopo aver scritto una lettera di commiato ai suoi cari, amaramente dice: non immaginavo fosse così facile morire. Hans viene ucciso per ultimo. I testimoni racconteranno che, prima che la ghigliottina lo decapiti, il suo urlo riecheggerà in tutto il palazzo, gridando: «Viva la libertà!». I fratelli Schell e Christoph Probst riposano gli uni accanto agli altri nel cimitero di Monaco. Mm-hmm. Questa storia tremenda che davvero ringraziamo Dina per averci ricordato, noi l'abbiamo letta e trovata così magnificamente scritta da Riccardo Cazzaniga, potete recuperarla sul suo sito riccardocazzaniga.com. Grazie a lui, grazie a voi che ci avete ascoltato, sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui per continuare a raccontare. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. Il vizio di oggi, l'avrete capito, è il vizio dell'oblio, cioè la terribile caratteristica di dimenticarci delle cose. E dopo averci insomma ricordato e averci permesso di raccontare tramite la storia di Dina la storia di Sophie Scholl, del fratello e del fidanzato, ora voglio raccontarvi un'altra storia che in parte era dimenticata e in parte voleva fosse dimenticata lo stesso autore della prossima lettera. Questa è una lettera scritta nel 1933, spedita da Pianosa a casa alla madre. Chi la scrive è Sandro Pertini. Sandro Pertini è chiaramente un antifascista, motivo per cui è stato dal regime fascista rinchiuso nel carcere di Pianosa, sull'isola di Pianosa, un posto meraviglioso per certi versi, ma terribile se è vissuto come un carcere nel 1933. A un certo punto la madre di Sandro Pertini fa una cosa che per lui è imperdonabile: chiede la grazia per il figlio, cioè chiede attraverso delle conoscenze che il giovane Sandro Pertini, che ha poco più di 20 anni, venga rilasciato e venga appunto fatto tornare a casa. Sandro Pertini non solo dice di no, ma scrive alla madre una lettera in cui in sostanza le dice: ma come ti permetti? Visti i miei ideali, come ti permetti di fare una cosa del genere? E la lettera è questa qua. Mamma, con quale animo hai potuto fare questo? Non ho più pace da quando mi hanno comunicato che tu hai presentato domanda di grazia per me. Se tu potessi immaginare tutto il male che mi hai fatto, ti pentiresti amaramente di aver scritto una simile domanda. Debbo frenare lo sdegno del mio animo perché sei mia madre e questo non debba mai dimenticarlo. Dimmi, mamma, perché hai voluto offendere la mia fede? Lo sai bene che è tutto per me questa mia fede che ho sempre amato tanto. Mi sento umiliato al pensiero che tu, sia pure per un solo istante, abbia potuto supporre che io potessi abiurare la mia fede politica pur di riacquistare la libertà. Tu, che mi hai sempre compreso, che tanto andavi orgogliosa di me, hai potuto pensare questo, ma dunque ti sei improvvisamente così allontanata da me, da non intendere più l'amore che io sento per la mia idea. Come si può pensare che io, pur di tornare libero, sarei pronto a rinnegare la mia fede? E privo della mia fede, cosa può importarmene della libertà? La libertà, questo bene prezioso tanto caro agli uomini, diventa un sudicio straccio da gettar via, acquistato al prezzo di questo tradimento che si è osato proporre a me. Nulla può giustificare questo tuo imperdonabile atto. Lo so, più di te sono colpevoli coloro che ti hanno consigliato di compierlo. Vi sono stati spinti dall'amicizia che per me sentono e dalla pietà che provano per le mie condizioni di salute. Mi si lasci in pace con la mia condanna, che è il mio orgoglio, e con la mia fede, che è tutta la mia vita. Non ho chiesto mai pietà a nessuno e non ne voglio. Mai mi sono lagnato di essere in carcere e perché dunque propormi un così vergognoso mercato. E tu, povera mamma, ti sei lasciata persuadere perché troppo ti tormenta il pensiero che io non ti trovi più al mio ritorno. Ma dimmi, mamma, come potresti abbracciare tuo figlio se a te tornasse macchiato di un così basso tradimento? Come potrei vivere vicino dopo aver venduto la mia fede che tu hai sempre tanto ammirata? No, mamma, meglio che tu continui a pensarlo qui, in carcere, ma puro d'ogni macchia, questo tuo figliolo, piuttosto che vederlo vicino al colpevole, però di una vergognosa viltà. Che male ho fatto per meritarmi questa offesa? Forse un peccato di orgoglio quando andava superbo di te, che con fiera rassegnazione sopportavi il dolore di sapermi in carcere? Mi auguro di soffrire pene maggiori di quelle sofferte fino ad oggi, di fare altri sacrifici per scontare io questo male che tu hai fatto. Solo così riparata sarà l'offesa che è stata recata alla mia fede ed il mio spirito ritroverà finalmente la sua pace. Ti bacio, tuo Sandro. PS, non ti preoccupare della mia salute se starai molto priva di mie lettere. Pianosa, 23 febbraio 1933. Continuiamo a raccontare un pezzo fondamentale della nostra storia seriale, quella che appunto Giorgio Bazzega ha raccontato a Mauro Pescio e Mauro ha raccontato a noi, quindi noi stiamo raccontando a voi. Sapete, nelle grandi storie, nelle grandi e nelle piccole storie, ci sono sempre dei momenti in cui a un certo punto succede qualcosa di non per forza strabiliante, ma che quantomeno cambia la direzione in cui sta andando quella storia. E questo è esattamente quel momento. Siamo ad un convegno insieme a Giorgio in cui lui è stato invitato per parlare appunto del padre, per parlare della memoria del padre. E lui cova questa rabbia, questa ira e questo desiderio di vendetta da anni ed è lì per dire tutto quello che pensa, ovviamente malissimo, probabilmente non vuole raccontare la sua idea di vendetta, ma vuole che quantomeno infangare le figure dei terroristi che hanno ucciso suo padre. Ma succede una cosa straordinaria: a questo convegno c'è un'altra persona a raccontare. Lui è il parente di una vittima del terrorismo, in particolar modo di una vittima che è morta a Piazza della Loggia a Brescia. Era sua moglie, lui la teneva tra le braccia, gli è morta di fatto tra le braccia, e lui invece che fare un discorso di rabbia e di vendetta fa un discorso di pace, e a questo punto Giorgio è totalmente spiazzato e quando tocca a lui succede questo. Io avevo capito che quella era la parte giusta, quella a cui volevo appartenere, e mi vergognavo a dire quello che mi ero preparato a dire. Il mio discorso era intriso di retorica della vendetta e di ego, e a quel punto non lo volevo più fare. Io uso sempre il paragone quando vado nelle scuole. Insomma, avete mai visto Blues Brothers? Quando arriva dalle suore che viene investito dalla luce, sono in missione per conto di Dio. Per me è stata una folgorazione assoluta. Il problema è che io ho capito che quella è la strada. Ero d'accordo con lui, però toccava a me parlare e non sapevo che cazzo raccontargli. Cosa gli raccontavo? Però non avevo gli strumenti per dire altro, non sapevo come uscire da quella situazione e non me la sentivo di improvvisare un discorso diverso da quello che io mi ero preparato. Mi sentivo un idiota, totalmente inadeguato. A venirmi in aiuto è stato un ricordo pescato da chissà dove, all'improvviso, di un'intervista a Fiorello. In quell'intervista Fiorello raccontava che quando aveva iniziato come animatore nei villaggi turistici, nel momento in cui non sapeva come andare avanti, negli spettacoli faceva una cosa, faceva finta di stare male. La gente accorreva, si prendeva cura di lui e intanto la figuraccia era scampata. A quel punto io sono lì, sono seduto sul palco, dietro a un lungo tavolo con tutti gli altri oratori, ma poco prima che tocchi a me mi alzo, chiedo dell'acqua, mi asciugo la fronte con un fazzoletto, poi alzo la mano e dico alla persona che mi porta l'acqua che mi sto sentendo male. Ho finto il malore e poi mi sono attaccato a Amalio fino alla fine del convegno. Ma oltre agli scossioni emotivi, in quella giornata ho avuto anche un'altra questione da dover fronteggiare. A Cortina c'ero andato con la mia ex moglie e ci avevano ospitato in un albergo molto molto bello. C'era lì la mia ex moglie, che era un pelo squilibrata, per usare un eufemismo, un pelo gelosa. E scendo c'è sta hostess che era lì a curare, fa: "Oh, bravi, ho sentito, fa, posso fare una foto ricordo?" Facciamo sta foto ricordo. Ma te quante volte mi avevano chiesto? Metto lì, faccio sta foto, mi levo, ma è stato tutto qua. Possiamo fare la foto? Sì, foto, mi levo, continuiamo. Non l'avessi mai fatto. Non hai capito, ho iniziato una scenata, ma una roba, che siamo arrivati in albergo, ancora un po' si era messa distruggendo la camera, a un certo punto fisicamente ho dovuto prenderla, bloccarla, cioè... Sono qui a parlare di mio papà, di terrorismo, di cosa mi fai venire i carabinieri in camera? Mi faccio, ti prego! Dopo poco io e lei ci siamo separati, ma quella è stata una scenata incredibile, di quella incredibile giornata. Io ero già piuttosto alterato dalla situazione, dall'incontro con Maglio, dal finto svenimento, e a fine giornata ho dovuto anche correre ai ripari perché lei stava per sfasciare la camera dell'albergo e avevano chiamato i carabinieri. Nello stesso giorno ho trovato il gruppo con cui ho ricomposto le mie ferite e ho rischiato di essere arrestato per avere definitivamente chiuso la mia storia con la mia ex moglie. Chiudiamo qui anche questa puntata di Linee d'Ombra. Vi ricordo che potete riascoltarci come quando volete attraverso i podcast, ovunque voi recuperiate i vostri podcast, e soprattutto se siete affezionati alle nostre storie seriali potete riascoltarle in un unico blocchetto da 5 alla volta, in modo da ascoltarvi tutta la storia, recuperare i pezzi che mancano se volete anche andare avanti. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!